Smarmella, Sì, smarmella. assolutamente sì. Allora, io smarmello tutto, poi si vede. Questa volta si fa a caso. Si è deciso così. Vado. E vai. E Domica. vai. Basta con la tombola. Basta con la tombola. Sospensione di ricreativo. Principi avviare il culturale. C'ho delle storie e pesi. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9! Buongiorno, buonasera. Eccoci tornati. Hola, hola. Siamo qua in presenza di Nicola il Supremo, Gianluca. Non so perché... Ti devo sempre celebrare all'inizio, Nico. Grazie, vedo grazie. Sempre te. Dopo il nudo, il supremo. Si stanno creando le prime usanze. Esatto, esatto. Esatto. I primi celebratemi, nomi. Celebratemi. I primi di celebrate. Abbiamo anche un grande ospite. Buonasera, buonasera, un grande piacere ospite. Essere ospite. Salve. È un grande ospite essere piacere. Grande ospite essere piacere, questa radio meravigliosa. Grazie. Ti prego, fai tutta la puntata così, ti prego. Ci provo, non è difficile. Sì, provo, sì. C'è da stare edizione per anni, per fare una roba del genere. Come state? Tutto a posto? Con una settimana così... È successo di tutto, è successo di tutto, anche nevicato. Anche nevicato, soprattutto, solo a Bologna in realtà. Sì, ha nevicato e non si può andare a sciare, questa è la notizia drammatica della settimana. Questa è la notizia, chiaramente. Sì. Vuoi sempre andare con i sacchi della spazzatura a fare le discese sui dossi. Non ci sono discese in Emilia Romagna. Dio mio. Solo salite, solo salite, capito? E niente, questa settimana sono successe tantissime cose, anche se non saranno il tema principale della puntata, che è un altro. Comunque vogliamo fare una specie di riassuntone della settimana, un po' di attualità. Ah sì, senza spoilerare il vero tema, tanto c'è scritto, esatto, nel titolo. È vero. Ci spoileriamo da soli, noi siamo avanti. Cos'è successo allora? L'ONU ha legalizzato, liberalizzato tutto, ha fatto un casino della Madonna. Cos'è successo di preciso? No, in realtà niente, ha solo tolto dalla categoria delle sostanze nocive la marijuana, e questo già tutti lo sapevamo, cioè in realtà non c'è niente di nuovo, mi sbaglio. In pratica la sagra dell'ovvio. Usare per curarsi, che insomma non è unicamente, no, nociva. Terapeutica, ora. Se ne sono accorti ora che in Canada sono quotati in borsa adesso i produttori. Non lo so perché. Sì? Sì, ci sono proprio delle società quotate in borsa che producono e coltivano cannabis terapeutica. Ok. Vabbè, anche se io conoscevo uno che diceva che non la voleva la cannabis terapeutica, non la voleva perché diceva che così sembra che i malati eravamo noi, e invece no, lui diceva sono loro i malati e non va bene. Chi era? Era un tizio con i rasta lunghi. Rasta man. Lo conosciamo? Chissà, io non mi ricordo più come si chiama. E poi cosa è successo? Jill, cos'è successo sta settimana? Cosa ti ha colpito? Cos'è successo? Dai, il nuovo cinema palazzo, dai, lo sgombero in concomitanza con la... Che hanno con chiuso? Con Forza Nuova. Esiste ancora? Forza Nuova. Questa è la roba che dovrebbe essere legale. E così poi comunque la cara Virginia Raggi ci ha detto che non vanno equiparate le cose, però no, sembra però che di fatto li hanno sgomberati. Hanno sgomberati uno spazio di cultura, di aggregazione, addirittura c'era una squadra di calcio popolare con cui la Locomotive, dove fortunatamente ora stavo giocando, siamo gemellati, niente, insomma, lo spazio che faceva cultura faceva comodo tantissimo anche alle donne che lavorano in città, perché comunque c'era un dopo scuola, insomma, servizi che aiutavano la cittadinanza del quartiere. Sì. E visto che comunque in Italia si è anche deciso di tassare le associazioni come se fossero imprese, giusto anche chiudere uno spazio per renderlo poi privato, per darlo a un privato, perché poi le giustificazioni sono queste. E ci fanno una sala slot, ho letto male? Io spero tanto di aver letto male. Che bel paese. Il massimo cose, della ragazzi, tristezza. Non riesco a Madonna, una sala realizzarle, slot. Ve lo giuro, non ce la posso fare. Vabbè, comunque sì, la settimana è stata un po' questa. Successo anche qualcosa di bello sta settimana? Sì, abbiamo salvato il ceto medio. Sì! Il famoso ceto medio. L'abbiamo salvato? Il subissato ceto medio. Sì. Ma perché l'ha detto il Papa o l'abbiamo salvato noi? Come l'ha detto i nostri rappresentanti. I nostri rappresentanti. Di fatto è così, Ma i rappresentanti, tipo quelli che vanno a vendere i prodotti porta a porta, quegli altri. Ah, va bene. Quegli altri. Vabbè. Dai, questa è un'ottima notizia, dai, questa è bella. Sì. E com'è bella la notizia del libro più venduto l'ultimo mese, com'era? Qual è stato? Fantastico. Le ragioni per cui Salvini merita rispetto, com'era? Stima. Fiducia, rispetto e stima. Ah, sì, 120 pagine vuote. Le pagine bianche di Salvini, sì. Ma è vero? È vero. E hanno fatto talmente tante review positive che è diventato il libro best seller. Questa cosa è stata fantastica. Ho gli screenshot, ho le prove. È un tappino sostanzialmente, ci puoi scrivere te. Cos'è? Esatto. No, io lo lascerei vuoto perché è un'opera d'arte, cioè come non so, imbiancare la Mona Lisa, esatto. Cioè come fai? È geniale, davvero, l'hanno fatto diventare un cult praticamente. Il commento più bello è stato di un amico che mi ha detto: certo, pensare che si può fare soldi in quel modo è veramente bello. Effettivamente uno dei modi più geniali che ho trovato visto per fare soldi. Divertirti e nel mentre guadagnare. Infatti c'ho in mente il secondo libro che devono fare è perché stimare quelli che hanno fatto il libro, bla bla bla. Lo rifanno voto, però. Gliele ridò uguali. La cosa più bella è che quei soldi sono espropriati ai leghisti. Esatto, la maggior parte degli acquirenti veri. Bisognerebbe vedere, ragazzi, non lo so. Io la tentazione di comprarlo l'ho avuta. Tenerlo lì proprio in mostra è aperto. Vabbè, in quel caso è una donazione. Esatto, in quel caso è una donazione. Però, si paga l'idea. La vera trollata è chi pensa di trovare il libro pieno di pagine scritte. È un ottimo regalo di Natale, secondo me, un'agenda per il 2021. Bravo Nick, vedi? Sono. Però non da prendere su Amazon, dai, in libreria. No, in libreria, sono aperte, no, le librerie, sì. Anche in zona rossa. Tra l'altro, ragazzi, tesseramento Arci fondamentale, tesseratevi perché ci sono un botto di sconti sui libri, non solo, musei, cinema, cioè prima o poi riaprirà tutto. Esatto. Quindi tesseriamoci, lo volevo dire perché ragazzi, veramente con una bischierata neanche 10 euro si dà la mano all'Arci e ci si fa un favore, quindi anche un regalino bellino di Natale, dai. Bene, dai. Dai, via. Ma insomma, di che si parlava oggi, quindi? Oggi... si parla del passato e del presente, credo. Appunto, io dico, quanto passato. Beh, per me è sempre relegato un po' alla dimensione passata, no? Io gli ultimi non è che me li sono visti tutti, non lo so, voi li siete visti? Direi. No, però la tentazione di guardare Frozen ce l'ho avuta, sì, io ho visto solo qualche canzone su YouTube perché mi hanno costretto. Sì. Ti hanno costretto, come hanno fatto? Era un ricatto peso. Tipo bomber. È un ricatto sessuale palesemente. Chiaramente. La porn, no, io Io ho la tentazione, sai. Come? Io ho la tentazione di guardarli, ma ogni volta che mi ricordo che ci sono tutte le musichette mi passa istantaneamente la voglia. Madonna, che palle. Cioè, che poi sono dei musical alla fine, no? No, errore. Non sono musical. Ora devi guardare Disney Pixar. Allora, se guardi Disney Pixar non ti becchi il vecchio classicone Disney, perché è tutto super dinamico con le mega grafiche, e magari c'è la canzoncina, anche ma Disney non è roba stessi esagerata, anche Disney stessi ancora sono smarmellano, sì. Eh? Però cioè, hanno creato una retorica su se stessi, cioè autoreferenziale, e infatti ci sono le passate all'interno dei pezzi di cartoni, ora non mi ricordo neanche più quali, dove dicono se ti metti a cantare vomito, oppure cioè, capito, allusioni del genere, dove cioè, si sono resi da conto da soli che erano eccessivi con queste... Esatto, adesso fare autoironia è diventata proprio una componente quasi trainante di tutto il circo, insomma, di tutti i film della Disney. Cioè, se prima il cliché, no, era proprio quella storia che era sempre uguale, no? Che ci sta la principessa, poi praticamente c'è qualcuno che la odia per qualche motivo. Esatto. A un certo punto arriva un principe, lei bello, si innamora e l'amore bello vince. Bello. Il principe deve essere bello e buono. Sì, sì, sì. Ricco volendo. Ricco volendo. Ci sarebbe anche la terza B, però quella lasciamola da parte, dai. E c'è sempre una dittatura di mezzo, cioè alla fine è sempre una dittatura velata gestita comunque da un illuminato buono o apparentemente buono. Buono. Eh sì, sì, sì, sì. Vabbè, ma di questo dai, approfondiamo dopo. Per dopo il primo pezzo? Eh sì, dai. Sì. Dai, mandiamo il primo. Fra l'altro non so se si capisce, ma oggi stiamo palesemente andando così a braccio. A braccio, cioè, proprio abbiamo smarmellato tutto. E infatti mettiamo un pezzo che non c'entra niente, ma forse vi farà venire nostalgia. K-pop? No. Sai che da tattitina 500. Yeah. Eh sì, che sono cambiati i film della Disney, dai. Non poco. Sì, direi di sì. Si diceva di questa cosa dell'autoreferenzialità. L'autoreferenzialità. Cioè, se ci siamo stancati a un certo punto della classica storia, bene male, no? Bene contro male, l'amore, eccetera, il cattivo per cattivo, chissà quanto ci vorrà ora stancarsi di tutta questa nostalgia e citazione dentro citazione dentro citazione. Mulinello. Vabbè, comunque è una, sì, una specie di Disneyception. Sì, sì. Comunque questa Disneyception è resa possibile, secondo me, alla base proprio dal fatto che la Disney in sé rappresenta uno dei pochi casi dove una compagnia di produzione di film fondamentalmente diventa un essa stessa, no? Un branding, un marchio così forte da avere qualcosa da aspettarsi dalla Disney, a differenza di magari altre case produttrici che possono fare un film e la volta dopo un film completamente diverso. Dalla Disney, in un qualche modo, invece, si sono creati un loro immaginario, un loro un'aspettativa ci hanno creato. Mm-hmm. Sì, un'identità anche, dai. Sì, sì, è vero. Il brand funziona. Ma io ho visto infatti. Che... Eh sì. Io ho visto che c'è pure un saggio su Google Scholar, così mi è passato sotto gli occhi, che diceva di come ha creato l'identità di un'intera generazione di bambini, addirittura la Disney. Vorremmo dire noi, generazione. Probabilmente noi. Oi, oi. Effettivamente siamo qui a parlarne, quindi forse siamo noi. Siamo dentro Inception. I primi che ci sentiamo presi in causa, esatto. Ma com'è nato tutto, però? Cioè, perché alla fine la Disney è un'azienda comunque nata negli anni 30, quindi diciamo di generazioni ne ha plasmate. Cioè, si è fatta anche tutta la Seconda Guerra Mondiale, dove fondamentalmente ha vissuto anche una stagione di propaganda filo statunitense, anche di forte critica per il fatto che non ha mai preso Walt Disney apertamente parola contro il nazismo, no? Infatti ci sono varie accuse, tra l'altro anche di satanismo, quelle non le ho capite bene. Wow. Ma effettivamente era tipo, a quanto pare, era affiliato con un sacco di gente con cui era amico, che era antisemita dichiaratamente, il sì. Signor Walt Disney. Lui però non è mai stato dimostrato se effettivamente lo fosse, però insomma le speculazioni diciamo che vengono soprattutto da quello, no? Vero, sì. Sì, sì, sì. E anche dal fatto che, se non sbaglio, durante la Seconda Guerra Mondiale lui aveva invitato negli Stati Uniti e ha avuto questi lunghi colloqui con con la regista principale del Terzo Reich, quella che invece faceva i video per il regime nazista. Mm-hmm. Mentre lui, insomma, ha fatto questa serie di 32 corti dove invitava il popolo statunitense a pagare le tasse. Ce ne sono alcuni che sono fantastici e anche inquietanti allo stesso tempo. Esatto, c'è The Dictators, dove prende per il culo i dittatori con c'è anche Mussolini, c'è quello giapponese, che vengono iper presi per il culo, e poi il tutto finisce con il messaggio diretto al popolo statunitense, in cui invitano i cittadini a pagare le tasse, a comprare i bond dello Stato per finanziare la guerra. E ci sono queste immagini di fabbriche che producono bombe, sono super super pesanti. Scusa, ma questa cosa invece l'ha mai fatta con i presidenti americani? Cioè, non che voglia difendere i dittatori, però mi interessa capire. Cosa? Caricature dei presidenti americani. Di presidenti americani. No, perché era il soldo dello Stato americano, cioè ovviamente. Ah, ma quindi vuoi dirmi che c'è una componente ideologica nella Disney e che ci siamo cresciuti dentro? Non so se ho detto questo. Non lo so, io ho capito questo. Non lo so. Ti sei calato. Non lo so. Ti sei calato il velo di Maya da solo, Umbe, nel senso che starei per avere una crisi di interiore di personalità incredibilmente potente e duratura. Ragazzi, c'è questo titolo qui che è clamoroso: Donald Duck in Naziland del 1943. Sì, no, ma sono... C'è Paperino che legge il Mein Kampf vestito da SS. Sì, sì, vabbè, quella è una forte critica in realtà al sistema nazista, eh. Problema. Sì, sì, ma comunque sono... Però è pieno di svastiche ovunque. Hai capito che... Sì. Perché ci scherzavano, perché ancora non sapevano quanto era grave la situazione, no? Come Chaplin. Ah, ok, sì. Certo. Vero. Sì, sì, sì, sì. Ma ancora erano cose attuali su cui magari potevi... tra virgolette si fa ironia o pensa di mandare messaggi ai bambini contro il regime nemico, insomma, più o meno. Esatto, era propagandistico, quello poco ma sicuro, insomma, mandiamo i bambini in guerra, quello era il messaggio. E ci vogliono i soldi per mandarli in guerra, però. Ma a proposito di messaggi, così, ma secondo voi qual era il messaggio della sirenetta? Cioè, cosa insegnava? A disubbidire al padre. Ok, ah. Perché lei disubbidì. Eh sì. Perché lei è una pezza. Non me la ricordo la storia. Com'era? Allora, che cosa succede alla sirenetta? Quella della Disney, chiaramente. Quella della Disney. Allora, sostanzialmente il tutto comincia con una grandissima festa alla corte di Tritone, no? Del re degli abissi, che è questo super figaccione palestrato senza peli, con una chioma fluentissima, esatto. Che fa questa esibizione con le sue 300 milioni di figlie, a cui tutto il popolo del mare deve necessariamente andare, ma... Per imprevisto, forza. Devono anche essere felici di andare. Devono essere felici a vedere questa super esibizione delle figlie del dittatore Tritone. Del dittatore dei mari, esatto. Ma a un certo punto, nel momento clou dell'esibizione delle figlie, si apre una conchiglia dove dentro ci doveva essere Ariel, ma Ariel non c'è. Ariel in tutto quello è a farsi un giro con il suo amico discutibile, che se non sbaglio si chiama Flanders, quel pesciolino giallo e azzurro con Ned. Esatto. Dove, che succede? Trova una forchetta e la porta nel suo mausoleo, perché lei c'ha tipo la cameretta segreta dove invece di appendere i poster di Jim Morrison appende cose degli esseri umani. Esatto, perché è uno super fan. Esatto, perché non è tipo una cameretta, è una caverna gigante, esatto, piena di roba, esatto. È già sintomo della sindrome d'accumulo che verrà poi in futuro. Esatto. Poi, se non sbaglio, ha un incontro del terzo tipo con uno squalo che prova a mangiarli, loro riescono a fuggire, arrivano in superficie e trovano questa barca dove dentro c'è gente che canta, gente che fa festa, c'è tutti brutti, puzzolenti, vestiti male, schifosi, tranne lui. Tranne il principe, che è bello, vestito bene, sorridente, capello fatto, con la figaccione pazzesco, con la camicia. Lei si innamora subito. Non si innamora, no? Di quelli che sono lì a lavorare, tutti brutti, stanchi, sudati, che stanno lì con le corde, con le mani rovinate, no? Ma il lavoro è cieco. È proprio cieco. E poi si innamora, poi... Quanto ci mette a innamorarsi? Secondo me si innamora nel momento in cui gli schiavi puzzolenti tolgono il velo da una statua gigantesca che lo ritrae tipo in una posa super figa, perché c'è anche questa scena super trash in cui si vede la statua del principe che inspiegabilmente è su una barca, non si sa perché, insomma. Ah, perché lì si scopre che è un principe. Comunque, sì. Sì, e poi temporalmente parlando, comunque si tratta di, non so, nell'ordine dei secondi, ci si innamora nel giro di secondi, comunque. Al minuto non ci vuole poi tanto tempo. Ma quello è tipico della Disney. Sì, se arrivi a un minuto, insomma, forse devi cominciare a dubitare che stia passando un po' troppo tempo, forse non è amore vero, perché non è stata abbastanza istantanea. Esatto. Ma chi lo sa cos'è l'amore vero? Forse l'amore vero è proprio quello che ci dice la Disney. Quello si chiama desiderio sessuale, di solito lo riconosci subito. secondo me, poi non lo so, vabbè, sì. E da cosa si distingue? Beh, non lo so, sono uno psicologo, però secondo me la Disney tende molto a fare confusione tra quello che è l'istinto sessuale che si attiva subito e invece l'amore vero e proprio, una cosa che si costruisce, però questa è un'idea mia, io veramente non voglio. Ma tipo come quello che diceva Fromm. Esatto, esatto, come quello che diceva Fromm, che poi in realtà è amore più che altro per se stessi, e se sei capace di amare te stesso, eccetera, eccetera, sì, sì. Esatto. No, la Disney questa cosa non la considero, ora risentendo anche questa storia della sirenetta, sì, che si innamora in 0 secondi, incredibile questa roba, ma non esiste, esatto, nel mondo vero, non esiste. Non esiste. Ma neanche le sirenette. Non esiste. Non lo sai, non le hai mai viste. Cioè. Di una cosa sono sicuro però, i granchi non nuotano e non hanno i denti. Esatto, esatto. È un peccato, e non sono tutti giamaicani. Quello è un peccato ancora più grave. Esatto, che personaggio inquietante che è il granchio con i denti. Beh, alla fine però c'è empatizzi, davvero, no? Sì, un po' c'è empatizzi, ma perché è un po' giamaicano. Ma perché secondo me è perché vogliono. E poi perché ha le sopracciglia. Anche, esatto. Vogliono proprio farti simpatizzare, solo per arrivare a quella famosa scena. Ma perché lui è un po' il grillo parlante, no? Cioè è quello incaricato da Tritone di vigilare sulla figlia, no? Sì, sì. Però sì, in modo simpatico, sì, cantando cose giamaicane. Perfetto, un granchio è proprio l'ideale per inseguire una sirena che scappa via nel mare, ovviamente un granchio. Ma che poi lui ha 300 figlie, no? Una roba, boh, sì. E quindi non lo so, sarà tutto il giorno a ripetersi nome per ricordarseli, mentre Sebastian si occupa di Ariel. Esatto. Che tra l'altro ha 16 anni. Tra l'altro ha 16 anni. Capisce. Sì, sì. Dettagli. E poi cosa succede? Insomma, Sebastian rimane sconvolto, comunque c'è la scena di quando entra nella cucina del cuoco che praticamente è siamo un horror. Degli esseri è un esatto, assolutamente francese, spietati, che uccidono poveri crostacei indifesi come Sebastian, e quindi uno potrebbe anche smettere per sempre di mangiare crostacei per vita sua. Sì, sì. Esatto. Che esatto, poi secondo me fanno quella scena, boh, non ha nemmeno un messaggio morale preciso, cioè non è che ti sta dicendo di non mangiare il pesce, dopo Ariel lo mangia il pesce. Ti dice che i francesi sono cattivi, semplicemente. Ah, bravo, esatto. L'unica morale è quella, i francesi sono veramente per deumanizzare il cuoco lo rendi francese, quindi poi... Le sirene cannibali, occhio. Sirene cannibali, vabbè. Ma poi secondo me si divertono anche a crearti uno o due traumi in ogni cartone, cioè... Ci vuole. E prima ti fanno empatizzare con tutto il popolo del mare, ti fanno dire ma che carini tutti questi pesciolini, e poi bam, colpo di scena, cuoco francese che sbudella tutti. Esatto. Hai detto bene. Io lo vedo proprio così, sì, perché col trauma vai sul sicuro, capito? Cioè qual è l'incubo peggiore per un produttore di film? È che tu esca dal cinema indifferente. Tu invece vai col traumone sul, esatto, bambino, sai che avrai successo. Sì, sì, esatto, ci metti sopra una canzone allegra, non tanti piccoli traumi, esatto, un bel trauma. E l'hanno fatto anche con la morte, no? Che in Bambi, no, cioè il trauma della morte della madre comunque è forte. Esiste. Ma non lo vedi, quindi che cosa hanno fatto nel Re Leone? Te lo fanno vedere, grande, anche lì trauma, esatto, infinito proprio. Forse, esatto, il più peso di tutti. Una scena di 5 minuti. Sì. Sì, che era ancora più lunga, se non ricordo male, la scena del Re Leone. L'hanno tagliata la prima volta che l'hanno fatta vedere della morte, che i bambini sono tipo esplosi in lacrime, e l'hanno quindi addirittura ammorbidita. Quindi quella che abbiamo visto, che è già strappa cuore a livelli ultimi, è comunque la versione già allentata rispetto a quella. Pensa a te, Dio boh. Volevano tipo farci venire un infarto alla tenera età di 10 anni. 10 anni, esatto. Anche meno. Bravi, bravi. Sì. Sì, forse meno. Esatto. Voi meno, io 10. Nel 93 o 94, via, una roba così. E poi altra morale della sirenetta, quale potrebbe essere? Cioè, disubbidire al padre comunque è perché il padre è sempre stato contrario al suo amore per un essere umano, no? E lei alla fine scappa di punto in bianco senza salutare nessuno, se ne fotte completamente del padre, della famiglia, degli amici, va da Ursula, Ursula mm-hmm. si chiama, la carnivora, che fra l'altro il suo personaggio è stato ripreso da una notissima drag queen. Sì, e la Ginette. Si prevede anche e lei è, cioè, comunque è un cattivo onestissimo, cioè gli dice guarda firma questo contratto dove contratto. Te praticamente accetti di diventare umana senza voce, hai 3 giorni per strappare un bacio al tuo principe, ma non deve essere solo un bacio, deve essere un bacio con dell'amore vero. No. Lei dice che ci vuole, c'ho 3 giorni, 3 giorni sono tantissimi. Senza voce però. Senza voce, esatto. Quindi si potrebbe dire che la seconda morale, tra l'altro c'è anche una canzone a un certo punto, pesissima, che canta Ursula ad Ariel, che gli dice che la voce non serve con gli uomini, che agli uomini piacciono quelle che non parlano, cioè roba del genere, no? Sì. Che sanno sta zitte, tipo, sì, una roba del genere, veramente... Grande insegnamento, grande insegnamento. Saggi educativi. Ti disobbedisci a tuo padre, ma solo se è perché ti sei innamorato di uno in 4 secondi. Questo è un esatto. principe, quindi è ricco, bello, è vestito bene. E qual era l'altro? Me lo sono scordato, mi dispiace. Era bello. Vabbè. Era bello, eh sì, voleva sì, era sì. principe, era ricco. Basta. E basta, che vuoi di più? Ma comunque è abbastanza discutibile anche la figura del principe, perché a un certo punto Ursula, quando sta perdendo, perché lei appena diventa umana finisce sulla spiaggia e casualmente il principe passa proprio in quell'istante dalla spiaggia, la tira su, la porta in casa, le offre una cena di pesce dove lei non si fa minimamente alcun problema a mangiare i suoi simili. Si stanno... Deve essere Flanders. Cioè a lei non gliene frega più un cazzo di niente proprio. E Ursula si accorge che sta perdendo la scommessa e quindi si trasforma anche lei in un essere umano, si trasforma in una ragazza, va sulla spiaggia dove casualmente ripassa il principe, la vede, la porta a casa e vuole sposare lei. Ma che roba è? Giustamente. Giustamente. Quindi secondo me seconda morale è riguardo al principe. Cioè ovvero oh, cioè se stai per sposare una, ma che cazzo te ne frega, ne trovi un'altra, sposa quella, fai il casino che ti pare. Tanto cioè, loro devono stare zitti. Ti passa la figa. Esatto. E poi come finisce? Finisce che Tritone scopre tutto, perché poi la sirenetta perde questa cosa e quindi rischia di diventare una cacchettina verde. Esatto, esatto. C'è scritto nel contratto. C'è scritto nel contratto che se perde diventa un'alghetta insignificante. Arriva Tritone, lo scopre, si immola per la figlia e diventa Tritone una cacchetta verde. Scena anche quella traumatica. Sì. Ma soprattutto poveraccio, Dio buono, quella se n'è fregata tutto il cartone del padre, ha fatto il cazzo che gli è pazzo. Esatto, altra morale dei film Disney, combina tutto il casino che ti pare, tanto poi saranno i tuoi genitori a prenderti le conseguenze di quello che fai. Esatto. Perfetto. Però poi alla fine si sposano, vivono felici e contenti, dove Ursula diventa gigantesca, perché questa è un'altra cosa abbastanza ciclica, c'è cioè in tutti i cartoni della Disney, dove i cattivi a un certo punto diventano enormi e si sabotano da soli, incredibilmente, perché Ursula, se non sbaglio, si uccide da sola alla fine. Cioè crea un vortice gigantesco in mare, dove riemergono tutte le barche dal fondo che cominciano a vorticare in questo vortice e viene infilzata da una di queste barche, cioè in pratica si ammazza da sola. Stupida! Queste barche sono apparse dal nulla, perché se no dove mai sarebbero potuti stare in piedi i protagonisti? Cioè, esatto. E quindi puta caso, scenario da proprio ciò che a caso è venuto fuori. Scenografia alla Boris. Esatto. Quindi insomma la sirenetta è bello, guardatelo, guardatelo, è bello. Sì, non lo farò mai vedere ai miei figli. Per fortuna non l'hanno ancora visto e sono salvo, sono salvo. Ma ce n'è tanti, ce n'è tanti ragazzi, ce n'è meno tanti. Male. Su chi andiamo? Su Aladdin? Cioè, prima avete detto, no, che quella, la sirenetta, quella della Disney, però, cioè, non ce ne sono, penso, altre, e fondamentalmente anche quello è un, è un altro dei capolavori Disney che è stato ripreso da roba su cui fondamentalmente non c'era più il copyright. Sì. Quindi sono stati dei maestri letteralmente nell'arte di copiare tutto ciò che era libero a disposizione e poi giocare tantissimo sulla lobby di prolungare il copyright. Cioè, solo per darvi un'idea, all'inizio, quindi nel 76 circa, erano 28 anni e quindi, cioè, non so, per fare un esempio cambiando, Star Wars, che è del 77, nel 2005 sarebbe stato di dominio pubblico. E uno, cioè, tutti quelli che hanno puntato ad aumentare il tempo del copyright ti avrebbero detto: ma perché, come fa un autore a campare in 28 anni di quello che ha fatto come opera artistica? E c'è una sfilza infinita di release, cioè c'è state le release al cinema del 77, 78, 79, 81, 82, il VHS, la Betamax dell'82, in televisione nell'84, il Laserdisc nell'85, il widescreen, poi il VHS release del 90, fino al 92, 93, 95, lo speciale al cinema del 97, il VHS speciale del 97 fino al DVD del 2004. Però se poi te nel 2005 tu avessi pensato di fare Star Wars, no, è come proprio, cioè, andare a togliere il cibo dalla bocca di George Lucas, e cioè è impossibile che con tutta questa roba ci possa aver campato. No, questo braccio. Quindi 28 anni, poi sono stati prolungati nel 1831 a 42 anni, nel 1909 a 56 anni, nel 1976 alla vita dell'autore più 50 anni, nel 1998, e questa è stata una di quelle su cui la Disney ci ha pigiato di più, alla vita dell'autore più 70 anni. Boia. Mamma mia. E questo dovrebbe essere per incentivare, pensate bene, che tutto nasce dall'idea di un accordo, tra un contratto tra gli artisti e la società, dicendo: se te artista continui a fare contenuti, noi non si copiano per un certo periodo di tempo. Quindi per incentivare la produzione artistica. Qual è il senso di incentivare la produzione di qualcosa se ti danno i soldi anche dopo che sei morto? Cioè, è l'incentivo peggiore che puoi fare, perché tanto a quel punto sei morto, non produrrai assolutamente più niente. E se con la prima opera che fai ci campi per tutta la vita, più 70 anni dopo le tue generazioni o la compagnia che ha compiuto i diritti, cioè, uno fa una cosa e poi qual è lo stimolo nel produrre altro, nel senso, secondo me sta diventando letteralmente controproducente tutta questa cosa, giusto per fare una piccola parentesi su copyright. Non male davvero, questa non la sapevo. Sì. Quindi ora è attualmente la vita più 70, è questo? Esatto. La faccia. Sì. Sì, quindi tipo mi sembra che nel 2024 Mickey Mouse diventerà di libero dominio, a quel punto di libero uso, avranno stesso a per sempre. Però aspettate, perché solo ed esclusivamente il primo Mickey Mouse di non mi ricordo che anno, del 1920. Quindi finalmente anche a South Park potranno far vedere Mickey Mouse. Beh, bellissimo. Però possono usare il disegno originale adesso. Esatto. Quello sarà incredibile. Quello, se dovesse essere una cosa da vedere. Vale. Sì, ma anche perché comunque la Disney, se non sbaglio, non ha mai fatto un prodotto originale fino all'originalissimo Re Leone del 95. Era originalissimo. Originalissimo. In realtà è una scopiazzata incredibile di un manga giapponese. Una scopiazzata di un manga giapponese? Sì, sì, dove il protagonista si chiamava Kimba, quindi c'è, neanche il nome sono riusciti a storpiare più di tanto. Kimba. Esatto. Che fatica. E quelli della Disney hanno fatto finta tutto il tempo di non saperlo, fino a che non è stato scoperto che uno degli ideatori e, insomma, uno del personale Disney che aveva lavorato al progetto del Leone aveva lavorato in Giappone per un tot di anni, proprio nel momento in cui questo Kimba era famosissimo. E incredibilmente lui però non sapeva niente. Ma era un leone? Kimba? Era un leone. Che coincidenza incredibile. Ma guarda, signore mio, ma c'è un originale. Un originale esiste? Secondo me no. Secondo me no. Allora mettiamo un pezzaccio. Grande, un pezzaccio. Cosa mettiamo? Cosa mettiamo? Tanto oggi è così. Possiamo anche mettere una sigla Disney a questo punto. Io ce l'ho se volete. Oddio. Vai. Vai, Gil. Vai, Gil. Allora. Era questo davvero? Yeah. Yes. Manifestations across the nations, full of people with obvious reasons. No nukes, Mandela free, cash from starvation, lots of poverty. Everybody wants to do something for others. It's just a cop out. Solidarity costs nothing. Real fighting could cause high price. South Africa ruled by imbalanced philosophy. International money making for segregation. You ever got not the sacrifice to your money from your bank. Your trap trick results in fame. Hold back man's murderer, murderer. You money right on your own. Just take why say your opinion. How about this will regress? How can you feel the thing in this way? Is this your best? Is this your best? You man right on your arm. Just take why say your opinion. How about this will regress? How can you feel the thing in this way? Think about what you need. Money, social position. Demo will keep you down. You can take no decision. Buying all the bras and masks, you would have condition. Now it's time we up this, yeah, this is corruption. Everybody want to do something for others. It's just a cop out. Solidarity cause nothing. Real fighting could cause high price. Devil sound right, we didn't fight. Everyone want to look like a light. What shines while at night? I be who would easy survive, no one cheating your life. Power, money, freedom to live. In which direction? Everybody want to do something for others. It's just a cop out. Solidarity cause nothing. Real fighting could cause high price. You want right on your arm. Just take quiet, say your opinion. How about this will regress? How can you feel this thing in this way? Is this your best? Is this your best? You want right on your arm. Just take quiet, say your opinion. How about this will regress? How can you feel this thing in this way? Eccola! Yo. Oh yes! Abbiamo risolto i problemi tecnici? Sembrerebbe, ditemi anche voi. Sì. E quindi la sirenetta ha un grande messaggio, va bene, ma io sono convinto che il Re Leone, nonostante sia scopiazzato, abbia un messaggio migliore da offrire, no? Sì? Non lo so, secondo voi? Ho paura a dire di sì. Non saprei, guarda. Alla fine sì. No? Come finisce alla fine? Della vita, no? Esatto. Una matata? Hakuna Matata, cioè. Sta però senza pentieri. Sta senza pentieri. È un po' un incidente di percorso, no? Nella vita di Simba. Diciamo che è tipo un po' il periodo del college, no? Ah già, l'assenza di responsabilità, però poi deve tornare comunque al posto, A un certo punto bisogna che lui faccia quello che a cui è destinato, no? Perché Simba c'ha proprio un destino. Il destino di un giorno tutto questo sarà tuo. Esatto. Predestinato, vero? Perché diventare il dittatore, no? Il re è un re, effettivamente. Il re leone, cioè il grande dittatore, possiede tutte le terre, tutti gli animali sono felici, c'è sempre bel tempo, il regno prospera, no? La natura è rigogliosa. Esatto. E invece a un certo punto quando Scar prende il potere, no? Perché Scar... Arrivano le iene. Esatto, cioè le iene e Scar sono relegati fuori dalla società del re leone. Non si sa bene perché. Diciamo che loro comunque rappresentano i reietti della società, no? Per un motivo o per un altro. Sono dipinti con questi colori tetri sempre, insomma, che non ti puoi sbagliare. C'era questa sorta di allusione al fatto che se arrivassero prima le iene, allora ai leoni non toccasse niente da mangiare, perché le iene non ci lasciano nulla. C'era tipo da qualche parte un discorso del genere sul perché le iene devono stare sotto nella gerarchia della foresta. Vabbè, ma non è un gran discorso. No, assolutamente. Perché da qualche parte però mi sembrava che ci avessero messo qualcosa di peloso, ovviamente, come del resto anche tutto il resto. Ed è proprio questo sistema che è il nostro capo della resistenza Scar ha provato a ribaltare. Cardinare, sì. Compagno Scar ci ha provato. Compagno Scar che vuole abbattere le classi. Lui vuole fare l'interesse delle iene, dei più reietti, no? Degli ultimi della società, ecco. Degli emarginati, esatto. È vero. Esatto, sì. Però non si capisce come, alla fine, cioè, appena Scar prende il potere, va via il sole, i fiumi si prosciugano, gli alberi prendono fuoco e, cioè, non so, sembra veramente il padrone degli elementi. Allora, se funziona come nelle elezioni normali, è colpa di chi c'era prima. Quindi è il risultato del malgoverno. vedi. È vero, è verissimo. Giustissima osservazione. È colpa di Mufasa. E allora Bibbiano? Esatto. E allora Bibbona? Allora... È così, è vero. Quindi Mufasa... Vabbè, comunque, cioè, al di là del fatto che ha traumatizzato tutto nel momento della morte, c'è quella scena incredibile in cui appunto viene travolto da quella mandria inferocita di Gnu per salvare il figlio, ma era tutta una trappola ideata da Scar. E che poverino, gli scivola, no? Gli scivola, esatto. E poi la stessa scena si ripete in fondo anche con Simba, dove però non si spiega perché Scar, invece di lasciarlo andare, gli racconta tutte le malefatte, ovvero tutto ciò che ha fatto per portare alla morte Mufasa, e Simba diventa una bestia, con un balzo torna su e fa sbranare, e secondo me c'è una morale bruttissima qui, perché poi le iene, che sono quelle che sono state riportate alla luce e alla ribalta da Scar, poi lo divorano. Esatto. Divorano Scar, sì. Che poi Scar viene ucciso dalle iene. Un po' come succede con i dittatori, no? Con le dittature anche. Si fa voce sugli ultimi, si fa presa sugli ultimi, che vengono tirati su, e poi però dopo, quando il dittatore cade, sì. Però passa la morale che ci vuole il sovrano illuminato per guidare questa mandria di iene, no? Passa la morale che deve tornare Simba, che ora è diventato re, e lui allora che rimette tutte le cose a posto. Figuriamoci se quattro iene possono ottenere qualcosa. Esatto. Infatti dall'apocalisse in terra, che praticamente era andato via il sole, e fiumi prosciugati, morta tutta la vegetazione, nessun animale che vola, all'improvviso è tutto uno scoppiare di vegetazione, di fauna e flora. In un istante è il risultato, certo, del buon governo delle iene e di Scar. esatto. E compare istantaneamente anche un figlio di Simba che non si sa bene esattamente da dove venga fuori. Pure? Sì, se non sbaglio finisce così, no? Che poi sì, ci sono stati anche i sequel. Vabbè, eventualmente possiamo andare a controllare sulla versione originale del manga giapponese. Sì, dai, comunque finisce che, appunto, come era iniziato, c'è cioè il cucciolino che viene mostrato alla folla di animali, il nuovo erede del futuro, il cerchio della vita, insomma, che va avanti. Sì, è vero, ci ria la scimmia che li fa il coso. Rafiki, no. Rafiki. Personaggio che bello in assoluto. Incredibile lui. Sì. Un pazzo. Insieme all'uccello leccaculo. Qual è l'uccello leccaculo? No. Era meglio il granchio con la bocca da giamaicano. Sì. Comunque vabbè, la parte più bella del cartone è la parte in cui Simba va in Erasmus con Timone e Pumba, dai, su questo siamo tutti d'accordo. Lì si sballa, Hakuna Matata, Fricchettone, mangia quei dinosauri che invece sono insetti, sono delle cose disgustose. E quindi Re Leone è un po' questo. Sì, è il cerchio della vita. Il principe deve fare il principe, le iene devono fare le iene. Dopo l'Erasmus bisogna prendere le redini dell'azienda, insomma. Esatto. Dio mio. E se te sei fra gli ultimi ci devi rimanere, perché se provi a ribaltare il sistema ti mangia a tua volta. Quindi no, devi starne il tuo, capito Iene? Sì. Così, altro grande insegnamento della Disney, un po' lassista effettivamente, non l'avevo agli andata, ultimi ma... agli ultimi solo le carogne toccano praticamente. Sembra un po' classista. Poi cosa c'è? Cos'altro c'è? Aladdin, peso. Aladdin è bella. La delusione più grande che ho avuto, perché penso sia quello che da piccino mi era garbato di più di tutti in assoluto. Come fai con quel genio, le canzoni che ci sono, il self-made man fatto bene per, ma come, rapirti quando sei piccolo. A me, ragazzi, finché non mi smottano Peter Pan sto tranquillo. Ai. Aveva una passione particolare Walt Disney per Peter Pan, era praticamente il suo preferito. Sì, mentre Pluto gli faceva schifo. Pluto? Non si vede. Sì, ce l'aveva a morte con Pluto. Cazzo, allora bisognerebbe assumere Pluto. C'era proprio un cazzo da fare. Beh, in realtà c'era un movimento di lotta anti-Disney a un certo punto. Le famose brigate nane, che praticamente andavano a rubare nani da giardino. È vero. Entravano nel bosco. Nel loro habitat naturale, è vero. Li riportavano nel loro habitat naturale, quelle delle foreste teutoniche, da dove le storie prese da Disney venivano spesso. Sì. Cazzo bello, questa è una storia estremamente crude sulla vita, magari con degli insegnamenti forti, nel senso che non erano assolutamente favole per bambini, quindi c'è stato un'opera di remake per trasformarle in cartoni animati. A parte Aladdin, se non mi ricordo male, non contiene nessuna scena realmente traumatica, però. Traumatica, no, in effetti. No. Cioè, c'è il momento in cui Jafar diventa, cioè prende il potere, però. Però non è proprio l'emblema del traumatico. Quando si trasforma nello stregone più potente del mondo, torna già a fare come era all'inizio. Esatto. È uguale. E poi diventa un serpentone. Vabbè, esatto. Ma quello, dai. C'è niente di irrecuperabile da Aladdin. Niente di irrecuperabile. A parte la figura di Aladdin, che diciamocelo, dai, è un po' uno sfigato. Parte il protagonista. Posso dire subito una cosa? Dai. Aladdin secondo me è un po' stronzo. Cioè, perché lui, no, ha tre desideri, no? E il suo primo desiderio è quello di diventare ricco. Cioè, poteva eliminare la povertà nel mondo, invece no. Capito? Decide di diventare ricco, perché Jasmine può sposare solo uno ricco, e quindi solo lui se la vuole sposare. Quindi lui deve essere ricco e gli altri no. Però non aveva studiato. Ma non solo ricco, scolpa, voglio dire, ricchissimo. Non aveva studiato, bimbi, va detto. Almeno quello. Beh, uno che si autodefinisce un poveraccio, diciamo, magari. Sì. Beh, però è un po' l'insegnamento maschile, che è l'analogo di quello che è per le donne la sirenetta, nel senso devi trovare il modo di far sì che poi ci sia l'innamoramento istantaneo. Devi, soprattutto per far colpo su una ragazza devi mentire e sembrare ricco. Esatto. Perché per poi creare condizioni surreali. Fare colpo su una ragazza ricca, principessa anche lei. Esatto. Non esatto, perché c'è la morale un po', no? Durante tutta la storia c'è questa morale che il genio gli dice qualche volta che sta fingendo, che dovrebbe essere onesto, dovrebbe essere sincero. Però poi alla fine funziona. Esatto. Quindi la morale è spara cazzate. Non ascoltare il genio. In qualche modo. Esatto. Infatti c'è quella scena struggente alla fine in cui anche il genio rimane deluso da Aladdin, no? Perché cioè, Aladdin gli ripete per tutto il cartone che l'ultimo desiderio lo userà per liberarlo, perché lui è schiavo della teiera. Perché non è una lampada quella, raga, è una teiera. Non d'accordo, non ha l'interruttore. Esatto. Esattamente. Sì. Però fatto sta che arriva l'ultimo desiderio, Aladdin gli dice, no guarda, mi dispiace, ma chioda, l'ultimo desiderio chioda. Lo uso io. E lui, scena struggentissima, gli dice, effettivamente hai mentito per tutto il cartone a tutti, non vedo perché tu debba dire la verità a me. E lì il buon Gigi Proietti, pace all'anima sua, grandissimo, rimane incastonato nella sua teiera. Sì. Davvero. Finché non se la trova Jafar a un certo punto, no? Sì. Sì. E lì ci si diverte. ci si diverte. E poi in tutto questo, cioè, la storia inizia che praticamente, cioè, tutta la storia è una storia che ti sta raccontando il tipo. Cioè, c'è un tipo che ti vuole vendere la teiera, che proprio buca la quarta parete. Sì, esatto. che prende la videocamera nel viso. Esatto. E ti vuole vendere sta teiera e ti inventa la storia di Aladdin. Esatto. Infatti c'è tutto il trip per cui la storia in realtà sia tutto frutto della fantasia di quel primo personaggio del cartone, no? Beh, sarebbe anche perché se non sbaglio vende le teiere perché vuole diventare ricco, che pensa che può fare colpo su una ragazza soltanto se diventa ricco. Via di teiere. Forse è una cosa sicura un po'. Forse risiamo del Dream Section. Grazie e vinci del cartone, vabbè. No, c'è la teoria per cui quel personaggio iniziale in realtà è già il genio della lampada. Perché e infatti nella versione statunitense è lo stesso doppiatore che doppia quel personaggio iniziale e anche il genio della lampada, ovvero Robin Williams. Finezza. Cosa che però in Italia non è stata fatta, quindi boh. Quando dice nel doppiaggio si perde qualcosa, no? Esatto. Il senso di un cartone animato, vabbè, comunque, ok. E poi tra l'altro Robin Williams tipo ci ha litigato un sacco con Disney per... Infatti dicevo c'era una storia interessante dietro al doppiaggio. Sì. Perché praticamente lui aveva chiesto di non apparire sul marketing, su tutti i prodotti di marketing, i deplant, le copertine, i poster, le locandine, eccetera eccetera. E praticamente hanno semplicemente modellato il personaggio del genio, anche proprio i lineamenti, sulla sua faccia, e l'hanno sbattuto tipo in copertina dappertutto alla fine. Quindi hanno usato Robin Williams, il personaggio di Robin Williams, per far fare successo ad Aladdin, praticamente, perché già è diventato un po' l'immagine che c'è anche proprio su tutte le cassette, sta il genio enorme, poi Aladdin è lì. Sì, sì. È stato un cambio importante, cioè alla fine era anche una questione di... cioè una sorta una politica delle compagnie di produzione di film, che nel momento in cui c'era un'animazione... spesso e volentieri erano gli autori di seconda fascia, fra virgolette, o gli emergenti che potevano andare a fare i doppiaggi. Quindi non c'era mai stato un vero marketing sui personaggi famosi, attori estremamente già famosi per quanto riguardava i cartoni animati. Anche qui la Disney ha il suo primato, in quanto appunto dopo ha spiattellato il genio ovunque come, esatto, come pubblicità. Ma c'è un'altra cosa interessante con Aladdin, più che altro perché, cioè, è un altro Williams che ha a che fare con la Disney e che ha a che fare con Aladdin. E purtroppo, ragazzi, è morto l'agosto dell'anno scorso. E, cioè, questa è una perdita enorme. Io non conoscevo assolutamente la storia, me l'ha raccontata un amico che ha studiato praticamente queste cose. E questo signore si chiamava Richard Williams. È un animatore che ha vinto l'Oscar nell'88 con chi è anche stato Roger Rabbit. Bellissimo. Figo. Capito con che è partito, cioè con una bomba incredibile. E inoltre detiene il Guinness, molto più triste però, appunto, perché è il Guinness World Record per la produzione film più lunga. E è per quello che è stato il suo capolavoro. Cioè, lui che era un estremo perfezionista ha pensato a questo... a questa grande animazione, al suo capolavoro, che era The Thief and the Cobbler, quindi il ladro e il ciabattino. E pensa che all'incirca nasce nel 68 come idea. Soltanto che in generale lui all'inizio non trovava nessuno che gli desse i soldi e che lo producesse, fondamentalmente. Quindi uno dei primi, siccome erano avventure basate su dei racconti, che erano avventure di Nasruddin, qualcosa del genere, scusatemi la pronuncia, comunque facciamo riferimento alla cultura ottomana persiana. Quindi a un certo punto un arabo, un principe arabo, gli ha dato 100.000, mi sembra, pound per cominciare il lavoro e per fare intanto 10 minuti di video. Non è rimasto troppo convinto, altri personaggi dopo si sono susseguiti. George Lucas ha detto che era troppo impegnativo, Spielberg a un certo punto gli ha detto: ok, si può fare questo progetto, ma prima di andare avanti con il ladro e il ciabattino bisogna che tu faccia una collaborazione con me. Ed ecco che è venuto fuori Roger Rabbit nell'88. Dopo quello la Disney gli aveva detto: ok, puoi andare avanti con il progetto, e l'hanno fatto a continuare dall'88 fino al 92, anno in cui poi fondamentalmente lui è stato licenziato. E puta caso anno in cui è proprio uscito Aladdin, cioè fondamentalmente è stato proprio il rinascimento della Disney che gli ha affossato le gambe, perché poi, cioè, se si va a vedere questo ladro del ciabattino c'ha un personaggio, per dirne una, tranne la principessa, i riferimenti appunto persiani, ottomani, arabi, c'è un personaggio che è Zigzag, che è uno dei personaggi principali, che è esattamente la fusione di Jafar e il genio. Cioè è Jafar per come è fatto, ed è blu e un po' grosso come il genio, però è letteralmente la fusione dei due personaggi. E quindi anche qui, cioè, non c'è una verità, però insomma è alquanto peculiare che dopo che lui aveva collaborato con la Disney esca all'improvviso qualcosa di così, così affine, no? Così simile. E oltretutto la Disney ce l'aveva a morte con lui, perché era un progetto troppo costoso. Lui voleva fare 24 interazioni al secondo, che sono un'enormità. Cioè normalmente la Disney si limitava a 12. E quindi dal 93, che poi è uscito, perché praticamente hanno venduto il progetto a un'altra compagnia di produzione, che ha fatto uscire La Principessa e Il Ciabattino, tagliando, mettendoci musical come per la Disney, imitando quel tipo di forma, per recuperare, diciamo, sull'ondata di Aladdin, ovviamente. Poi è uscito Arabian Nights nel 95, e questo è della Miramax invece. E poi alla fine invece c'è stato un fan, fondamentalmente, Gareth Gilchrist, che nel 2013 ha pubblicato quella che è la raccolta più comprensiva di tutto quello che è l'originale. E quindi, oltretutto che è una cosa libera che c'è su YouTube, cioè andatevela a cercare, perché è una cosa anche a livello di disegni e di animazioni, cioè ci sono rimasto veramente sconvolto, davvero. Peccato, quindi non uscirà mai questo Il ladro e il ciabattino. È morto lui senza mai finire l'opera, perché a un certo punto, addirittura pensate, nel 2000 Roy Disney gli voleva far finire il film, l'originale, riprenderlo completamente di qua e di là. Poi è uscito Shrek, praticamente da lì la Disney ha smesso di fare le animazioni vecchio stampo con i disegni veri, e quindi di lì poi William ha perso le speranze, non ha voluto più sentir parlare di quel progetto e appunto l'hanno ripresa i suoi fan, e poi appunto lui è morto l'anno scorso, però vale la pena secondo me di guardare. Era una magna opera, 24 tavole sono tantissima roba a mano, anche se c'hai un sono tantissima roba, ma poi quanti frame saranno la qualità, insomma, visto, perché poi si tratta anche di c'è della precisione incredibile. Me lo voglio andare a vedere, guarda, l'avevo già lui che ce l'hai detto, molto interessante. Bella storia. E insomma, che è rimasto poi della Disney, ragazzi, siamo a fondo, mi sa. C'è un mondo, ma appunto di roba nuova è difficile, insomma. Non mi sentirei di parlare di Frozen o di Moana o che ne so io. Non lo so, cioè vabbè, Bambi è una gigantesca martellata sulle palle di un'ora e mezzo. Sì. Abbastanza, sì. Biancaneve e sette nani, che è l'opera prima, che è stato un flop gigantesco. Che però io non ricordo benissimo, sono tantissimi anni che non lo vedo, però ricordo questi nani felici di andare in miniera, che mi avevano un po' turbato sta cosa. Cioè, il lavoro peggiore del mondo. Sì, i disegni sono bellissimi, tra l'altro tipo c'era un artista famoso che faceva gli sfondi per la Disney di alcuni film, ora non mi ricordo quali nello specifico, ma ci sono proprio, cioè, opere sue esposte nei musei, cioè sfondi che la Disney aveva per le animazioni. Boh, purtroppo non mi ricordo il nome. Ci sta che sia lui o quello che ha collaborato poi con Richard Williams, perché mi sembra che sia proprio quello di Biancaneve e sette nani, che dopo ha fatto una collaborazione sui disegni per quello lì che dicevo prima. Dai, mettiamo un pezzaccio. Dai. Via. Dai, lo metto io. In onore alla Disney. In onore? L'onore. Ma, cioè, più che altro me l'ha fatta venire in mente. Non so perché. Cioè, o meglio, lo so perché. Perché la Disney vuole questo. Sentiamoci. Mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente. Mi piacciono le sbarbine, mi sento deficiente. Lo so che non conviene. Mi piacciono le sbarbine, ma poi chi si trattiene? Conta il calore. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde. Le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante. Le sbarbine in amore. Mi piacciono le sbarbine. Yeah, yeah, yeah. Anche se mi fanno soffrire. Mi piacciono le sbarbine. Non c'ho mai niente da dire. Mi piacciono le sbarbine. Quel che voglio è solo amore. Tipo senza storia, mi piacciono le sbarbine, ma un fregaccio la memoria. Mi piacciono le sbarbine, ma l'amore di una sbarba, yeah, yeah, yeah, mi fa andare giù di testa. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore. sbarbine sono carine. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine c'hanno gli occhi. Yeah, yeah, yeah. Le sbarbine con i tacchi. Mi piacciono le sbarbine. Che mi mandano nei matti. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Yeah, yeah, yes. Lo so che non conviene. No, no, no, no. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Io voglio starci assieme. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde. Le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante. Le sbarbine in amore. Yes. Vabbè, Nick, ora ti devo chiedere una cosa per forza. Cosa? Come, perché ti è venuta in mente? Pensando alla Disney. Secondo me se la scortava in cameretta Jafar pensando a Jasmine o... Madonna. O anche nella Sirenetta, perché il principe ha palesemente 40 anni e va con una sedicenne dugongo. E poi dai, ci stanno sempre gli Schiantos. Comunque, insomma, sti qua che hanno prodotto Aladdin, sono Eisner e Katzenberg, no? Se non sbaglio. Sono quelli che sono entrati nell'89, uno praticamente gestiva Disney Company, la compagnia, e quell'altro gestiva lo studio, no? Quindi la parte della produzione. E loro, se ho capito bene, lo facevano di prassi proprio, cioè c'avevano un sacco di animatori a cui venivano, che li picciavano progetti e poi sceglievano quale li piaceva o no, no? E c'è stato anche un altro film dove hanno fatto una cosa simile a questa cosa che raccontavi te, Gianlu. E è stato il tizio che ha prodotto Hercules, che praticamente lui è entrato a Disney con un'idea in testa. Lui voleva fare l'isola del tesoro nello spazio. Lui era dall'89 che voleva solo fare l'isola del tesoro nello spazio, però ha finito per fare tipo 3 o 4 film per la Disney. E poi quello mi sa che è stato l'ultimo, non so se poi l'hanno fatto davvero alla fine. Mi ricordo qualcosa, ma non so se poi l'hanno fatto. Comunque, insomma, uno è stato Hercules. Quindi è una cosa che capitava spesso, di nutrire di false speranze gli animatori, evidentemente. Dicendoli che poi avrebbero concluso i loro capolavori, che aspettavano una vita. Esatto. Per finire, davvero. Come la Disney come Scar con le Iene, praticamente. Esatto. False promesse, false speranze. Bastardi. Io semplicemente disegnavo. Sono sempre... Disney Inception, praticamente, esatto. Un po' da tutte le parti. Come fai a togliertela dalla testa? È possibile. Esatto. Ma poi non so se avete letto di quella cosa inquietantissima che è il progetto Epcot, no. Che era ideato da Walt Disney. No. Sì, l'avevo guardato un attimo, ma poi non ho approfondito. È una cosa incredibile, cioè, ovvero Epcot è un progetto che nasce nell'82 ed è l'acronimo di Experimental Prototype Community of Tomorrow. Quindi prototipo sperimentale per la comunità del domani, e doveva essere un parco a tema, però non aperto quindi a un pubblico pagante, ma un vero progetto di comunità, cioè un modello di società dove dentro ci dovevano essere degli abitanti che però erano privati totalmente della proprietà, quindi un progetto dove non era tollerata povertà, diversità, e dove si concedeva alle corporation di progettare il futuro degli abitanti, e dove erano vietate tutte le forme di sindacato, e tutte le persone che volevano viverci dentro dovevano per forza pagare l'affitto e non possedere niente. Ah, però. Però non è che nessuno possedeva niente, cioè c'era chi possedeva, e se ci andavi te non possedevi niente. E dovevi pagare l'affitto. Certo. Una tecnocrazia incredibile. E infatti questa è stata una di quelle cose che ha avvicinato di più, diciamo, Walt Disney a tutte le critiche che ha avuto negli anni di essere vicino a delle idee naziste, in un certo senso, no? Ma io non ci vedo niente di male in un progetto del genere, voglio dire. Ma sì, dai, cioè alla fine anch'io pago l'affitto. Cioè dai. Cioè questa illusione. Io lo pago affitto. Posso dire qualcosa, poi in realtà dai, si va a scamare, su. È vero, cioè, facciamo pace con questa cosa. Qualcuno possiede e tutti gli altri non pagano l'affitto. Facciamoci pace finalmente. Tutti gli altri usufruiscono di servizi. Se un giorno inciampi sulla lampada con un genio, sei fortunato, fai il desiderio e diventi ricco, se no dai. Esatto. Se no sono cazzi tuoi, se no sei una iena. Sono stracciosi, una iena. Madonna, che bellezza. Però come sono belli, Sì. No, cioè io fra l'altro forse chiudo ringraziando la Disney per avermi fatto vedere i playoff NBA quest'anno. Già, già. Perché così poi c'è dal nulla. Ah, ogni tanto fa anche qualcosa di buono. Ho fatto anche cose buone. Ho fatto anche cose buone la Disney, sì. Che fra l'altro anche quella è una storia incredibile, aver chiuso tutta l'NBA dentro una bolla dentro Disneyland per farli giocare e intrattenere il popolo americano durante una pandemia. Che cosa assurda, cioè veramente un revival esatto, come progetto ecco. Ma non è che erano gelosi di Space Jam? Bravo. Tra l'altro ora fanno il 2, fanno il 2 ora, fanno il... questa è una notizia. Fanno il 2 con LeBron James. Raga, chi altro? Vabbè, tanto la bolla ce l'aveva già, quindi erano a posto. Ha fatto tutto ce l'hanno nella testa, ce l'hanno. Mamma mia, non ci credo. Ma è... E quindi grazie Walt Disney. Grazie Walt Disney. Gentili. Grazie Walt Disney, che è lo sponsor di questa puntata, se non sbaglio. Bravo. Grazie Walt Elias Disney. Elias. Elias. Va bene ragazzi, è stata una bellissima puntata. Sì, è stata una bella improvvisazione da parte di tutti. Ringraziamo YouTube che ha sponsorizzato tutto il contenuto. Esatto. Gratuitamente, sì, grazie. E anche Wikipedia, sempre con il dovuto supporto. Grande. Bravo, ma tra l'altro lo sai che Wikipedia è nata a partire dalla Guida Galattica per autostoppisti? Vero? Ma viva! Questa mi mancava. Viva Wikipedia! Sì, sulla prima versione di Wikipedia c'era scritto Don't Panic. Cavolo! Bellissimo! Incredibile! Il creatore si era ispirato proprio alla Guida Galattica, che era già un culto addirittura prima di internet, no? Oh. Ci voleva questa cosa. Perché tipo la Disney, che già pensavo fosse una cosa brutta, è venuta fuori ancora più brutta da tutto ciò. Però vedi, non mi aspettavo che una cosa bella come Wikipedia potesse diventare improvvisamente ancora più bella. Il ciclo della vita, cioè, quindi... ritorna alla vita poi. Davvero, esatto. Quindi sì, ci stava tutto. Va bene, dai, bella direi che con questa possiamo chiudere. Sì, assolutamente sì. Dai. Concludiamo in bellezza. Dai. Chi lo mette l'ultimo pezzo? Per me è pezzo per le iene, se volete. Vai, bello. Vai. Allora, un pezzo vai, per ciao le iene. Ciao a tutti e tutte. Ciao. Ciao a tutti. Grazie Jack per questa comparsata. Un piacerissimo, ragazzi. Orgoglioso d'estar. Orgoglioso d'estar. Entre il proletariato. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Va a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuela los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Resistencia. la revolución. Sí, señor. La